Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. I terremoti non si possono prevedere. Però questa è una cosa sulla quale nessuno, alla fine, davvero nessuno. Insomma, ci sono minoranze consistenti che resistono. Chissà se è proprio vero, e qualcosa in ciascuno di noi dice, ma boh, che ne so, l'allarme può avere un senso, può avere un significato, si prevede, si rileva, lo sciame sismico, i movimenti strani della Terra, i gas rilevabili. Non si può prevedere, però c'è sempre margine per una polemica sulla prevedibilità di un terremoto. L'altra cosa, secondo me, sicura è che un terremoto non si può prevenire, dico integralmente prevenire, cioè un terremoto è un terremoto, insomma, la crosta terrestre si squarcia, si rompe ed è evidente che questo comporta conseguenze, in particolare nelle zone densamente abitate, nelle città. E noi siamo un paese urbanizzato da secoli, un paese di 100 città. E naturalmente le città sono effetto della storia, sono antiche, spesso sono antiche le costruzioni. E poi qual è il problema? Il problema è che certo che si può prevenire la conseguenza di un terremoto, in parte, marginalmente, forse anche in modo consistente, ma c'è la prevenzione del prima e la prevenzione del poi, cioè il processo a come è costruita una città, al rispetto delle norme, delle regole, delle compatibilità con una civiltà antisismica è facile, è appunto il processo del senno del poi. Chiunque possieda un'automobile, una bicicletta o un motorino, un mezzo di trasporto, e chiunque abbia un'abitazione sa che se si facessero dei rigorosi controlli ispettivi sulle condizioni di sicurezza della caldaia, della lavatrice, del sistema idraulico, oppure delle gomme più o meno lisce, della convergenza delle ruote anteriori, la presenza o no di strumenti di segnalazione efficaci per un evento, insomma, la prevenzione c'è, si può fare entro certi limiti, ma c'è sempre la possibilità poi di un incidente, c'è sempre la possibilità di una, come dire, che si crei una situazione anomala. Per via della previsione e della prevenzione, i terremoti sono tradizionalmente, come altre catastrofi naturali, ma più delle altre, il terreno sul quale si sviluppa una sorta di isteria collettiva. La gente cerca un colpevole, un capro espiatorio, e in qualche modo la società si lacera. Chiedo scusa, ho la tosse stamattina. E naturalmente le divisioni politiche riaffiorano tutte sull'onda di una grande scossa sismica e diventano quel cibo da pastura velenoso della cattiva politica che abbiamo conosciuto in passato tante volte, con alcune rare e segnalate eccezioni. Ieri si cita, tutti hanno sempre citato quella del Friuli Venezia Giulia, oggi pare di poter citare l'Abruzzo, perché a 9 giorni dal sisma le cose sono andate in modo tale per cui fondamentalmente il paese si è specchiato in una situazione, diciamo, civile, avanzata, che corrisponde a ciò che il paese vorrebbe essere: un paese solidale, pieno di gente buona e disponibile, ma anche organizzato, tecnicamente capace di fronteggiare una situazione. Naturalmente però sono esplose anche le polemiche, il detonatore è stato in questo caso la trasmissione di Michele Santoro. E le polemiche sono legittime, non è che possono essere tacitate le polemiche. Sono esplose anche le polemiche, ma fino adesso è sembrato di capire che le polemiche sono, diciamo, contenute, hanno un senso, bisogna dare retta, bisogna capire perché è crollato l'ospedale dell'Aquila, se veramente c'è stata lì un'infrazione patente di regole che valgono altrove, eccetera, eccetera. Parliamo di tutto questo oggi con Alessandro Giuli, vice direttore del Foglio, con Mario Aiello del Messaggero, con Mariano Maugeri, inviato in Abruzzo del Sole 24 Ore, che proprio oggi rivela che esisteva una cooperativa di lavoratori socialmente utili che censiva le situazioni pericolanti a rischio nel territorio aquilano e che poi fu ritenuta un lusso questa commissione, Cooperazione Abruzzo, e trasformata in cablaggio Abruzzo, cioè in un'altra cosa, perché insomma questa idea della prevenzione è considerata tutto sommato poi alla fine un lusso, e quindi stare a censire e catalogare i palazzi che crolleranno sotto l'impulso di un terremoto è roba per super ricchi. E poi abbiamo Francesco Carli anche al microfono, avvocato, assessore per 2 anni alla pianificazione del comune dell'Aquila nella precedente giunta di centrodestra. Il suo studio nella città è andato distrutto e ha voglia di dire delle cose. Bene, terremoto, prevenzione, previsione e contenimento degli effetti politici, cioè una scossa che fa in modo che una comunità diventi più coesa e non più divisa, non più debole, non più fragile, salvando naturalmente il diritto in tutte le democrazie a dissentire, a indagare, a controllare e a fare tutto quello che è necessario perché, diciamo, le teste non si imbambolino e le bocche non si chiudano. Mariano Maugeri, buongiorno. Buongiorno a te. Lei per il Sole 24 Ore ha scritto una serie di articoli, molto quello di stamattina che citavo prima riguarda questa cooperativa che censiva. È una società regionale, Giuliano. Sì. Sì, sì, cooperativa, dico, si chiama Cooperazione Abruzzo, insomma, per quello. Ecco, questa società regionale che censiva le situazioni a rischio e che poi è stata abbandonata. Lei è pieno di dettagli e convincente. Prevenzione zero, andiamo dentro, vediamo, verifichiamo e vedrete che il terremoto poteva arrivare in una situazione migliore dal punto di vista preventivo. A me però resta in bocca un sapore da senno del poi. Sbaglio? Questo non lo so, io posso citarti una mail che ho ricevuto ieri di un lettore di una abruzzese aquilano che ha scavato dalle 4 della mattina alle 11 della mattina insieme a 2 vigili del fuoco a mani nude, perché malgrado da 3 mesi ci fossero scosse ripetute, i famosi sciami sismici, e la città dell'Aquila, la protezione civile regionale, non si era neppure preoccupata di rinforzare per esempio i vigili del fuoco di stanza all'Aquila. Alle 4 del mattino in un capoluogo di regione c'erano soltanto 15 vigili del fuoco e le prime gru giustamente sono arrivate alle 11 del mattino. Il giorno prima i responsabili della protezione civile regionale hanno detto andate a letto tranquilli, malgrado ci fossero state già 2 scosse molto pesanti proprio il giorno prima di quella distruttiva, e bevete un bel bicchiere di Montepulciano d'Abruzzo, che è un vino straordinario, e dormite sonni tranquilli. Ecco, questo secondo me è il sintomo di un paese pasticcione, di un paese superficiale. Sì, sì, vabbè, questo si sa. O comunque di responsabili locali che hanno volutamente sottaciuto il problema, non perché fossero in malafede, semplicemente perché sono forse fatalisti, ma qui entriamo in un altro ambito che forse tu tratteresti meglio di me. No, ma questo si sa, siamo d'accordo. Il fatto è che i terremoti naturalmente, diciamo, si perdono nella memoria di generazioni, non sono per fortuna un fatto, diciamo, ricorrente, nel senso che tecnicamente non è che c'è un terremoto ogni decennio, non è. No, io ho parlato con Enzo Boschi, Istituto Nazionale di Vulcanologia. Anch'io ho già parlato, verdetto è un grande scienziato. Dall'Abruzzo in giù fino al 7° grado della scala Richter, anche domani mattina, il Big One di cui si parla tanto in California ci sarà nella Sicilia orientale. Non so se domani, fra 10 anni o fra 50 anni, lo sappiamo già. Dalle Marche in su fino al 6° grado della scala Richter. Cioè, voglio dire, la scienza e la tecnologia hanno fatto dei progressi. Allora poi sta a noi allertarci e prepararci a eventi di questo tipo. Cioè, questa è razionalità. Con le emotività invece si possono fare tanti altri ragionamenti. E infatti quello che abbiamo letto, quindi forse sarebbe anche il caso che si facesse autocritica, che i giornalisti facessero autocritica, perché ho letto delle cose assolutamente inverosimili. Ho letto che per esempio l'ospedale dell'Aquila sarebbe stato raso al suolo, cosa assolutamente falsa. L'ospedale dell'Aquila è lì, pare che non ci siano poi danni strutturali, e quindi certo c'erano dei sistemi costruttivi parametrati non sulla situazione di massimo rischio, come invece dice l'Istituto Nazionale di Vulcanologia, perché questa è zona rossa, ma un passettino indietro, perché così è più facile costruire, è più semplice, è la flessibilità, come dire, all'italiana, che non va bene, perché poi c'è un'altra forma di flessibilità, è quella delle piccole imprese, per esempio, che funziona alla grande. Sentiamo Francesco Carli. L'ospedale dell'Aquila è in piedi, non è vero che è stato raso al suolo, e la grande leggenda nazionale che l'ospedale è stato costruito malamente da impresari edili cattivi, da società eccetera eccetera, insomma, non sembrerebbe corrispondere a verità. Lei ha altre denunce da fare, avvocato Carli, da ex assessore dell'Aquila alla pianificazione urbanistica? Chiede di riferirmi all'ospedale? No, a quello che vuole. Perché io conosco la vicenda dell'ospedale, sì, per ragioni professionali, quindi farei una parola di meno, insomma, perché come dire, sono stato coinvolto per ragioni del mio lavoro, e però posso dire in linea generale che le affermazioni che sono state fatte e anche le denunce che sono emerse, le iniziative che si stanno avviando, a me sembrano abbastanza frettolose, abbastanza improprie, anche perché la vicenda dell'ospedale è una vicenda vecchia, che è stato un fatto costruttivo che è durato moltissimi anni, che ha avuto nel tempo, ha visto il succedersi di molte imprese di costruzioni e di molti contenziosi. Nel corso di, sì, però adesso non facciamo una cosa dettagliata sulla storia dell'ospedale, che tra l'altro, non essendo raso al suolo, è una storia, diciamo, meno tragica. Avvocato Carli, lei è stato assessore alla pianificazione urbanistica del Comune dell'Aquila dal 2005 al 2007. Quali sono le cose che ha da rimproverarsi o da rimproverare ad altri che non sono state fatte per prevenire gli effetti di un eventuale terremoto, visto che il terremoto è lì che alligna, anche se può succedere fra 50 anni o fra 100 anni, come diceva prima Maugeri? Io devo rimproverarmi il fatto di non essere riuscito a mandare a regime, a rendere operativo un lavoro di pianificazione, di programmazione, anche di analisi del territorio, che è stato fatto, ed è stato fatto in maniera dettagliata, anche con riferimento alle problematiche che oggi purtroppo... Sì, però qui vede, il problema è questo, le formule sono tutte, appunto, un po' da senno del poi, no? Il punto è questo, la prefettura, va bene, la prefettura era malsana urbanisticamente, sì, ma si poteva abbattere la prefettura, cioè decidere di punto in bianco, cioè una mattina la gente passeggia, fa lo struscio davanti alla prefettura, poi va nella piazza, poi va a messa, nella prefettura c'è l'ufficio per gli immigrati, lo abbiamo visto con cioè la cosa, tutti i documenti, abbattiamo la prefettura, si può fare così? Ma visto che poi non si trattava solo della prefettura, ma secondo tutti i censimenti a rischio si trattava di mezza città, cosa facciamo? Abbattiamo mezza città? Facciamo un grande piano di abbattimento delle città italiane? Bisogna essere un po' responsabili, secondo me, quando si dicono queste cose, perché c'è quello che si può fare e quello che non si può fare, nessuno farà mai, o sbaglio? No, non sbaglia, direttore, però non si può, come dire, valutare in maniera omogenea tutte le situazioni cui ci si sta riferendo. Certamente non si può abbattere mezza città e non si può neanche evacuare mezza città, e forse non si riuscirà neanche a mettere in sicurezza. E allora sono tutte chiacchiere, se mi consente. No, però riguardo alla prefettura, per esempio, c'era... Pare, io l'ho appreso in questi giorni perché non era di competenza urbanistica, una rilevazione recentissima del 2006, del 2007, fatta da una commissione ispettiva che non suggeriva, imponeva. Sì, ma c'era pure una perizia che diceva che l'ospedale sarebbe caduto, raso al suolo alla prima piccola scossa. E voglio dire, questo è il paese della burocrazia, figuriamoci, poi in Abruzzo, l'Abruzzo ha lo Stato nel sangue, la burocrazia è il sale dell'abruzzità. Una perizia che ti dica che una roba cadrà è come il sigaro e il certificato di cavaliere, non si nega a nessuno. Cioè, se noi andiamo a inseguire le profezie di quello che diceva, so che ci sarà il terremoto, però aveva sbagliato, era Sulmona e non l'Aquila, secondo lui. O andiamo a inseguire i procedimenti burocratici col seno del poi, che avrebbero dovuto consentirci di alleviare i rischi, radendo noi per primi al suolo la metà delle città italiane, che sono tutte insicure da questo punto di vista. Questo è, vede, avvocato, questa è, la mia, è l'idea che io mi sono fatto, ma forse mi sbaglio però. No, non si sbaglia, guardi, è la mia stessa idea, perché anch'io ritengo che allarmismo oppure eccesso di come dire, una visione utopica anche degli interventi doverosi o addirittura obbligatori non serve a niente. Però, direttore, qualcosa si può fare, insomma, devo dire. E qua il rimprovero che io faccio, lei mi ha chiesto che cosa ha da rimproverarsi, quindi lo faccio a me stesso e lo faccio, certo, a quelli che sono stati i miei interlocutori politici, è che delle volte la politica è distratta rispetto a questi problemi. La mia esperienza di pianificatore, io parlo in prima persona, ma in realtà è stata un'esperienza fatta grazie alla collaborazione con il professor Carter, che è stato il coordinatore dell'attività di pianificazione nuova che noi avevamo avviato. Era una cosa necessaria ed è una cosa che è stata completata da parte nostra. Poi non è andata a regime per i balletti della politica. Appunto, è tutto lì il lavoro, anche con la sua brava e importante relazione geologica, ed è un lavoro che si sovrapponeva a una vecchia pianificazione che, essendo appunto vecchia di oltre 40 anni, era stata predisposta in momenti antecedenti all'introduzione e all'approvazione della legge antisismica. Certo, naturalmente, certo. Le connotazioni del nuovo piano rispetto al vecchio sono tantissime altre, ma per rimanere sul tema che oggi ci assilla, la nuova pianificazione che avevamo preparato conteneva qualcosa di più e di meglio della vecchia, e quando si è andati a votarla questo nuovo atto pianificatorio, è mancato il numero legale, direttore. Ed è mancato il numero legale. Scusi avvocato, ma Ugeri, lei che ha fatto inchiesta diretta sul campo anche sugli aspetti burocratico-politici, lei aveva sentito parlare di questo progetto di pianificazione che teneva maggior conto dei rischi? Ne parlo sul giornale di oggi. C'è un piano segretato dei luoghi strategici a rischio sismico. Ma è questo il piano Carli? Il piano Carli Carrer? No. No, è un piano redatto dalla Protezione Civile regionale sulla base del censimento fatto da questi dai ragazzi di Barbi. Quindi sono già due i piani che sono stati, diciamo, affossati. Ma hanno prima fatto una riunione in prefettura nel 2007, dicembre 2007, in cui la Protezione Civile dice gli edifici più a rischio, i due più pericolosi, sono la prefettura e una scuola, un ex liceo scientifico. E infatti si interviene subito, la provincia, che è proprietà del Palazzo della Prefettura, mette in sicurezza un'ala, non riesce a mettere in sicurezza tutto perché non mancano i quattrini, semplicemente, e perché politicamente non rende investire sulla protezione civile, che è anche comprensibile in una situazione, come dire, di mancanza di risorse che ormai attanaglia tutto il paese. La regione Abruzzo è in default. No, il bilancio, cioè, la storia 2009, della sanità che ha assorbito tutti i quattrini disponibili. Esattamente, non ha più un soldo per nulla, e allora quei pochi quattrini il politico li investe sulle strade, su opere, come dire, visibili, non sulla protezione civile. Appunto, chissà se tra 50 o tra 300 anni ci sarà il terremoto. Va bene. Bene, 800 24 00 24, Francesco da Roma. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ma due cose velocissime. La prima è che non c'è bisogno di radere al suolo la prefettura per metterla in sicurezza. Cioè, oggi esistono sistemi di consolidamento e di messa in sicurezza degli edifici che non hanno certo bisogno di demolirli integralmente. La seconda cosa si riferisce all'ospedale. Secondo me il vero scandalo di quella vicenda non è l'esito che ha avuto l'edificio per il sisma, ma il fatto che in Italia per costruire un'opera pubblica occorrono 30 anni, quindi evidentemente c'è qualcosa nel processo edilizio, soprattutto di istruzione di opere pubbliche, che in questo paese va radicalmente cambiato. Sì, siamo reduci da una discussione appunto sull'abbattimento eventuale di alcuni vincoli burocratici alla costruzione, alla piccola costruzione, eccetera, no? La famosa questione del premio cubatura, però si è detto che non bisogna toccare le regole, eccetera, quindi non lo so, lì c'è un conflitto probabilmente, no? Più ostacoli tu metti e più dura il tempo di costruzione di un'opera pubblica, o no? Oppure, non c'è dubbio che esista in Italia un apparato di regole farraginoso, contraddittorio, pensando che moltiplicando le regole si moltiplica la sicurezza, ma non è così. Grazie. Giovanni da Taranto. Buongiorno. Io fui testimone, anche perché portai con i limiti del momento soccorsi al terremoto dell'Irpinia, quindi Sant'Arcangelo di Lombardi, Lioni, Balvano, Vietri di Potenza, fu drammatico. Oggi chiaramente la situazione è diversa, grazie a Dio, perché 10 giorni dopo lì ancora mancava il necessario. Comunque è una testimonianza quasi divertita la mia. Alcuni anni fa fui in una vacanza a Cefalonia, una notte ci fu un terremoto 5,8 Richter, ero ospite in una villetta. Immediatamente dopo la scossa venne l'ospite dove stavamo e quasi divertita mi rideva, diceva no state tranquilli, perché Cefalonia fu distrutta, se non sbaglio, negli anni 50 e ci furono centinaia di morti. E quindi lì non stiamo parlando del Giappone o di San Francisco o Los Angeles, parlo di Cefalonia. A Cefalonia è stato preso tutto con criteri antisismici e a me fece, insomma, quasi stupore vedere lì il cittadino del posto che era quasi divertito dalla nostra paura. Quindi questa è una testimonianza per dimostrare, sono terre in cui si convive in effetti con i terremoti che hanno una, no, sono eventi più, esatto. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Gianluca da Roma. Buongiorno dottor Ferrara, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sempre molto pungente e precisa. Grazie. Telefonavo per dare una piccola, insomma, testimonianza. In realtà adesso questo processo in corso sa un po' di caccia alle streghe, no? Dobbiamo trovare i responsabili purtroppo di una tragedia che ha colpito tante persone. La realtà però è che quando si realizzano le opere è chi amministra che alla fin fine dà le indicazioni. I tecnici molto spesso, quando rappresentano dei problemi o dei contrasti che spesso sorgono con chi realizza le opere, vengono messi da parte, vengono messi a margine, perché l'ottica è che la cosa comunque si deve fare. E se tu sei il tecnico, quando dici una cosa crei un problema, e i problemi non sono mai ben visti da chi amministra, perché chi amministra anche in questo modo fa politica. E purtroppo bisognerebbe avere il buon senso da parte di chi oggi fa questa caccia alle streghe ed è chi fa politica, di fare un po' anche di autocritica. La realtà purtroppo del nostro sistema oggi è questa. Bene, la ringrazio. Mario Aiello, alla luce di quello che abbiamo sentito fino adesso, la testimonianza di un inviato capace che ha rivelato un sacco di magagne nell'ambito della mancata prevenzione per il terremoto in Abruzzo, Maugeri, le cose che ha detto l'avvocato Carli, le cose che hanno detto gli ascoltatori, ciò che si è letto sui giornali, il caso Santoro, lei che è stato ottimista e che ha scritto un articolo dicendo 10 regole che ci hanno, diciamo, 10 lezioni su come siamo riusciti a uscire dalla prima emergenza terremoto, compatti, seri, con un recupero di rapporto di fiducia fra Stato e cittadini, la faccenda regge o no? Guarda, più che altro così, in quell'articolo, cioè io volevo dire che magari il terremoto può essere un'opportunità, cioè voi stessi, sì, proprio, non bisogna esagerare, perché ricordo un libretto in Campania con un titolo veramente curioso che fu fatto dopo il terremoto dell'Irpinia di Napoli, Grazie Sisma. No, ma sì, no, perché, cioè, no, non voglio spingermi a opportunità, tanto, insomma. Però insomma mi ha stupito, dopo il primo giorno in cui mi è subito scoppiata la polemica sulle parole di Giuliani, sui suoi, sì, così, sulle sue previsioni così un po' scientifiche o pseudoscientifiche, Poi subito dopo io mi sarei aspettato, così seguendo la politica da qualche anno, così la cannibalizzazione reciproca tra i due poli, insomma, tra il PD, il PDL, eccetera. E mi sono un po' stupito che questo non è avvenuto, perché se noi ci pensiamo, insomma, fino al caso Santoro di venerdì scorso, poi abbiamo avuto, così per usare una parola orrenda, una formula orrenda, così uno spirito bipartisan di fronte al... ripeto, non mi piace perché in genere è proprio una parola vuota e retorica, comunque insomma si è lasciato spazio al protagonismo legittimo in questi casi del Premier, il Partito Democratico insomma non ha fatto polemica tra il Presidente della Repubblica e Berlusconi, mi è sembrato che si andasse nella stessa direzione, cosa che non accade. Tu prima citavi Pertini, no? Non so se ti ricordi quando arrivò Pertini sui luoghi del sisma, subito si era preso con la classe politica, insomma è successa una baraonda, cosa che non è avvenuta, per cui ecco, non è che io voglio essere, poi siamo anche in campagna elettorale, per cui tra poco riscoppieranno le normali dialettiche aspre, però insomma la prima reazione mi è sembrata così di un paese decente. Almeno fino alla grande cerimonia di dolore, di lutto nazionale, comunque, sì. Che è stata quella dei funerali, sì, dove tra l'altro Berlusconi e Franceschini si sono, mi pare, stretti la mano. Sì. In un paese dove tutto questo non succede, non è normale, non è, cioè, c'è una classe politica divisa sui fondamentali, spesso in modo anche isterico. Giuli, questo miracolo è già finito oppure può no, continuare ad aleggiare nell'aria? Non credo sia finito, non credo, perché continuiamo a vedere che un requisito minimo di concordia sopravvive nel dialogo tra il ministro Maroni e i responsabili del centrosinistra come Anna Finocchiaro, eccetera. Si continua a dire che anche il piano di ristrutturazione che il governo e la protezione civile stanno approntando deve tener conto delle osservazioni dell'opposizione. Diciamo che il ceto politico ha manifestato un livello di maturità e concordia anche superiore a quello della cosiddetta opinione pubblica indotta dai mezzi di comunicazione. Posso dire una cosa? Secondo me hanno dato un contributo a questa faccenda proprio gli abruzzesi. Cioè io ho visto attraverso le immagini televisive una roba che non si vede spessissimo nel nostro paese. Dignità, ma non dignità detto retoricamente, la dignità si attribuisce a qualunque cosa, certo, anche a un cane che fa pipì. No, dignità vera, cioè sobrietà, una certa idea che noi non siamo qui a tendere la mano mendica, chiediamo una solidarietà che pensiamo ci spetti, così come la offriremo agli altri, una reciprocità, un senso proprio di comunità hanno dato, non so come mai. Un gran senso della misura. Gli abruzzesi sono montanari, discendono dai marsi, sono insomma gli eredi di una stirpe antica di persone vissute in montagna, e la montagna induce innanzitutto al silenzio e alla compostezza. Chi conosce la fatica che si fa per scalare una vetta sa perfettamente che il silenzio è prezioso, perché parlare troppo rompe il fiato, rompe il ritmo, e queste sono popolazioni, gli abruzzesi ovviamente pienamente inseriti in un contesto nazionale e per certi versi anche apolide oggi, però comunque sono cittadini italiani cresciuti in una dimensione dove l'identità e l'orgoglio della montagna si accompagnano con un senso di grande sobrietà, di senso della misura e di orgoglio. Quindi è mancato quel lato un po' piagnone che ha caratterizzato in passato altre circostanze di calamità naturale, e in questo forse anche la classe politica si è trovata di fronte a un esempio. Non ha dovuto rincorrere il piagnisteo di qualcuno aprendo polemiche, divaricazioni, indicando foto o enfatizzando frasi drammatiche, ma ha subito come per induzione questo senso di orgoglio e di compostezza che poi ha caratterizzato anche la reazione dei politici tutti, a cominciare dal Premier Berlusconi che si è ha subito quasi un processo di identificazione emotiva fortissima, al punto da partecipare alle esequie in mezzo a alle vittime. Sì, è apparso diverso dal solito, meno goliardico, sì. Anche se poi naturalmente ha cercato, come nel suo stile, ogni tanto di rompere il ghiaccio, sì, diciamo, sì, no? Della comunicazione formale, ufficiale, e lo hanno rimproverato molto all'estero per quelle frasi. Sì. Non so, a me sembravano, non so quale. Aiello, quelle frasi che Berlusconi ha detto sul campeggio, sull'andare al mare, eccetera, mi sembravano bonarietà rassicurante, non irrisione o gaffa. A me sì, devo dire. Quello è Berlusconi. E vedo anche che è vero che ha creato polemiche sui giornali stranieri, ma non ha creato polemiche nei campi. Quando ha detto a quella signora, a quella medichessa, mi piacerebbe essere rianimato da lei, quella signora con i capelli rossi, sì. e lei è stata la prima a fare un sorriso bonario, ha detto, sì, tutto è stato, diciamo, entro i termini del buon gusto, non sono sentita minimamente offesa, né io né la comunità che sto aiutando. Poi un'altra cosa che mi ha fatto abbastanza impressione, cioè noi abbiamo letto ieri anche l'articolo di Saviano, adesso la Camorra mettere le mani sulla ricostruzione, questo è un capitolo, scusate, io adesso lo devo aprire, poi no, questo è un capitolo, mi dà lo spunto, Aiello, sì, per aprire un capitolo veramente, per me assolutamente. Ma adesso lasciamo stare Saviano, che fa la Madonna Pellegrina, ormai è lo scrittore deputato ovunque nel mondo, arriva Saviano, lasciamo stare Saviano, ma Grasso, andiamo ai pezzi da 90, alle persone importanti, ma Grasso ha una responsabilità, è il coordinatore nazionale, diciamo, delle politiche giudiziarie antimafia. Ma cosa significa dire attenzione perché la Camorra metterà le mani sulla ricostruzione dell'Aquila? Se mi sembra la previsione di Giuliani sul terremoto a Sulmona. A me pure, mi è sembrato. Ma che proprio vuol dire? Ma che tipo di allarme è? Che significato ha? È ovvio che se c'è un grande piano di ricostruzione e di investimento, e se ci sono poteri criminali che cercano. Dov'è? Voglio le prove puntuali, precise, circoscritte, di qualcosa che sta avvenendo, concretamente, di cui si hanno dei riscontri. Cos'è? E lui ha fatto un'incursione in questi 9 giorni dopo il terremoto, nello spirito, nella mente, nei sogni, nella parte onirica dei boss camorristi, ha capito che loro... Ma che è? Che stiamo a giocare? A fare la telepatia? Ma infatti devo dire, appunto, la reazione, diciamo, poi delle due massime autorità istituzionali sul campo, cioè il sindaco e il governatore, il sindaco Cialente dell'Aquila e il governatore Chiodi, sì, d'Abruzzo, sono state molto, in questo senso, molto in linea con il discorso che hai fatto te. Cioè hanno proprio così detto, ma insomma, parliamo di cose più urgenti. Ah, mi fa piacere, non lo sapevo. Tra l'altro sono un ex comunista. Uno è un ex comunista, sì, che è il sindaco dell'Aquila, e l'altro un berlusconiano, no? Sì, appena... l'altro è un berlusconiano, sì, sì. E tra l'altro l'uno, a proposito poi insomma così, della speranza di una nuova politica, uno ha detto, il sindaco ha detto, finché c'è questo presidente regionale noi possiamo stare sicuri che la Camorra insomma noi dal nostro faremo di tutto per... e quell'altro ha detto del sindaco la stessa cosa. Insomma, adesso lasciateci lavorare invece di, Vabbè. 800 24 00 24, ci avviamo alla conclusione. Salvatore da Roma, no, Mirko da Milano ha un suggerimento, poi Salvatore da Roma. Mirko. Sì, buongiorno a tutti. Sì. Io volevo fare una precisazione. Dunque, io sono un volontario della Protezione Civile della provincia di Mantova. Proprio ieri ero a un corso, diciamo, di aggiornamento e si stava appunto analizzando l'evento sismico di L'Aquila. Una cosa che mi ha colpito e che vi porto anche a voi per i vostri commenti è che nelle mappe sismiche della nostra nazione, L'Aquila non è non rientra nelle zone ad alta sismicità, quindi non è nella zona rossa, per cui volevo soltanto riportare questo, che magari anche chi ha costruito gli edifici sicuramente deve aver tenuto conto di queste condizioni e magari non li ha fatti considerando l'alta sismicità di cui si sente tanto parlare adesso. Quindi bisognerebbe rivedere i criteri di sismicità che vengono attribuiti alla regione dell'Aquila. Grazie. Sì. Salvatore da Roma, grazie. Sì, buongiorno. Sì. Io vorrei dire una cosa forse un po' banale: bravissimi nell'emergenza, ma pessimi nella normalità. Perché adesso la colpa è dei politici di turno degli anni passati che non hanno stabilito determinate norme, eccetera. Però io credo che sia anche una questione personale di chi costruisce una casa, di chi fa bene il suo lavoro da ingegnere, da imprenditore edile, da committente. Cioè, io la vedo in questo modo: sfruttiamo, mi passatemi il termine, questa opportunità per cambiare il nostro atteggiamento di fronte a queste cose. Banalmente, diceva prima lei delle gomme lisce della macchina, beh, controlliamoci anche le gomme lisce, stiamo attenti a tutte queste, cioè preveniamo, ma preveniamo in maniera seria, non in maniera formale, rispettando banalmente delle norme. Lei dice non è solo un problema delle classi dirigenti, è un problema culturale italiano. Un problema culturale di cittadinanza, diciamo, di come siamo cittadini e di come stabiliamo una relazione con noi stessi, con il nostro ambiente, con la casa naturalmente, lo spazio abitativo è la prima testimonianza di tutto questo. Ma Augeri, mi scusi, queste testimonianze per esempio la convincono? Il suo viaggio inchiesta, duro, severo, con chi ha mancato nelle classi dirigenti locali, in particolare la protezione civile che non ha messo un numero sufficiente di vigili del fuoco nel momento in cui c'era comunque un allarme diffuso, oppure le altre cose che lei ci ha detto e raccontato sul Sole 24 Ore, questa diagnosi che abbiamo appena sentito, cioè sì, però poi alla fine c'è il piccolo impresario edile, l'ingegnere, il committente, insomma, questo mancato rispetto delle regole, questa genericità anche delle regole, l'Aquila non è nella zona rossa, che è una roba che è diffusa, insomma, disseminata. Che fa sì, parte... infatti, diceva giustamente l'ascoltatore, è un problema culturale, però la cerimoniosità tra il sindaco e il governatore mi appassiona poco. Uh-huh. Mi piacerebbe che il sindaco dicesse, prima di tutto facesse autocritica sulle sue responsabilità, che sono oggettive e delle quali non parla, dice basta con le polemiche. Mi piacerebbe che qualcuno dicesse come si darà assistenza sanitaria a un capoluogo di regione. In questo momento chiunque venga colpito da un infarto all'Aquila deve andare a un'ora da qui, a Pescara, a Teramo, ad Avezzano. E nessuno sta affrontando questo problema, che è un problema chiave. Mi piacerebbe che qualcuno parlasse del campus universitario. Noi abbiamo messo sotto le macerie 50 studenti che venivano qui dalle province, come dire, più povere di questo paese, adesso non voglio fare retorica, per laurearsi e fare gli ingegneri e i medici. Non ne parla più nessuno e stavano in case trappola che sono crollate come cartapesta, perché il campus non si può fare, perché sennò la città dell'Aquila non vive se non dà in nero l'affitto agli studenti, come succede a Perugia, come succede a Bologna, come succede a Padova. Ecco, possiamo innovare questi comportamenti in nome di queste vittime? Possiamo creare un campus? Mi piacerebbe che Chiodi lo dicesse, e non dice nulla per mettere in sicurezza il nostro futuro, gli studenti, quelli che ci pagheranno le tasse e quelli che riscatteranno questo paese. Possiamo offrire uno straccio di assistenza sanitaria agli aquilani che in questo momento sono in balia degli eventi? Ecco, mi piacerebbe che si parlasse di questo. Va bene. All'Aquila. Grazie Maugeri. Dunque, il futuro. Ora noi abbiamo un governo con un ministro dell'interno della Lega, con le forze che sappiamo del PDL, che hanno in mano le leve fondamentali, diciamo, di attivazione esecutiva dei progetti, dello stanziamento delle risorse, l'economia, le attività produttive, le infrastrutture, eccetera. E un'opposizione tosta, ma che in questo caso si è dimostrata collaborativa. Che succederà, Giuli? Nell'immediato succederà che verrà impiegato parecchio tempo per studiare le possibili soluzioni. Non sarà una cosa immediata, non ci saranno piani d'azione a tempi brevissimi. Quello che possiamo riscontrare è diciamo un atteggiamento di studio comune e di fattività condivisa. Faccio un breve riferimento alla questione della sanità, delle emergenze. È ovvio che in una situazione del genere non si può pretendere che l'assistenza sanitaria sia garantita in modo perfetto e immediato, perché L'Aquila è una città sconvolta, ma così come non si può garantire che un infartuato di un paese di montagna in provincia dell'Aquila abbia un'assistenza sanitaria immediata, perché deve essere trasportato a Sulmona, magari non più all'Aquila, così è chiaro che la regione colpita dal terremoto vivrà mesi e mesi in uno stato di eccezione, di emergenza, e nello stato di eccezione si verifica se esiste una, come dire, una comunità di destino, e un po' si è visto in Italia riaffiorare questo i senso. I leghisti per esempio devono gestire grandi risorse per tamponare una grande crisi in un luogo miticamente simbolico del sudismo italiano, del sud, no? L'Abruzzo. Questo è un aspetto molto interessante, perché i leghisti stanno ottenendo il varo del federalismo fiscale, ma non sanno se poi si potrà attuare, perché non conoscono nemmeno i costi, perché Tremonti non gliel'ha detto ancora. Però ora sono impegnati, e seriamente impegnati, facendo anche bella figura, come nel caso di Maroni, a reperire soldi in nome di un problema nazionale, che quindi va molto al di là della ragione sociale della Lega Nord, e sono messi seriamente alla prova di un governo e di un pensiero nazionale, e devo dire che si stanno comportando egregiamente. Io faccio l'esempio di Maroni perché da ministro dell'interno, sia su temi come la sicurezza, sia nel caso dell'emergenza abruzzese, effettivamente la risposta che è stata data non è una risposta, diciamo, da sindacalista padano, ma proprio davvero ministro. È vero, la cosa interessante tra l'altro è che in questi giorni fatali, contemporaneamente, governo e opposizione e all'interno della maggioranza si è creata una grande concordia, ma sono sopravvissute le divisioni politiche naturali. Cioè in Parlamento si sono battuti in modo valoroso gli oppositori sulla storia della denuncia degli immigrati da parte dei medici, dei clandestini, diciamo. C'è stata la questione delle ronde, su cui il governo è andato sotto. Sulla data del referendum stanno litigando e cercando un compromesso Berlusconi e Bossi. Cioè non è che è stata sospesa la politica ordinaria, lo osservava Pierluigi Battista nel fondo del Corriere, la lezione abruzzese. Aiello, è vero anche questo, no? Cioè non è che è stata sospesa la politica democratica in Italia, solo è stata cercata e trovata una speciale solidarietà per la questione del terremoto. Certo, cioè si muove così su due binari come una politica normale dovrebbe fare. Questo succede anche dentro il governo, se ci pensi, perché è vero che la Lega sta mostrando così attenzione agli interessi generali nel caso dell'Abruzzo, Maroni si sta comportando bene, eccetera, eccetera, però abbiamo anche visto all'interno della maggioranza le beghe sull'Election Day tra la Lega e il PDL. Quindi, sì, però tutta roba insomma alla fine viene governata. Esatto, sì. Governata senza appunto mettere il silenziatore a nessuna, a nessuna delle questioni. Che sono in e alla fine anche il caso Santoro si rivelerà una roba di panna montata, insomma, non credo. Dici, io questo non lo so. Ma non so, vedo che Marano ha detto Santoro, non lo so, non mi pare una cosa così, poi vedremo, staremo a vedere. Grazie a tutti voi, a Giulia, a Iello, a Maugeri, a Francesco Carli, in redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Paolo Corleoni e Giorgio Matè, la linea allo speciale del giornale Radio 24 sul terremoto, e poi Melog 2.0 con Gianluca Nicoletti. Un abbraccio, a domani.